Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Settimana scorsa non ero con voi, non ci siamo sentiti, ero via per lavoro, però il vantaggio è che ho recuperato la voce, come sentite è passata l'influenza stagionale. E quindi ancora ben ritrovati, buon sabato, mi siete mancati, è vero, mi è mancata questo obbligo che ho, ma anche un piacere di aprire questa finestra sull'Europa. E allora cominciamo dal mio sito preferito, che è voxeurope.eu, perché illustrato da una bella vignetta che sembra a una prima veloce occhiata la bandiera dell'Unione Europea, cioè la bandiera blu con tutte le stelle gialle, al centro però c'è un campanello d'allarme simile a quello delle biciclette. L'articolo, il lungo articolo di Alberto Alemanno, racconta come a poche settimane dall'anniversario della firma dei trattati fondatori dell'Unione Europea, che sarà il 25 marzo, e mentre comunque continua la crisi, lo sentiamo ogni giorno, la crisi dell'Unione Europea, la crisi di fiducia dei cittadini dei vari paesi dell'Unione Europea nelle istituzioni di Bruxelles, Lussemburgo, Francoforte, eccetera, c'è un gruppo di oltre 300 ricercatori e personalità europee che hanno firmato un appello per rilanciare l'integrazione europea e invitare la società civile, gli universitari, i giovani cittadini a partecipare a una grande marcia per il 25 marzo a Roma, perché infatti è a Roma che si festeggeranno questi 60 anni della firma dei primi trattati europei, perché poi, come sappiamo, sono stati più volte modificati e oggi le regole dell'Unione Europea si sono molto evolute rispetto appunto a quei trattati voluti dai sei paesi fondatori. Cambiamo un po' argomento, ma ripeto, questo articolo molto interessante lo trovate su www.voxeurope.eu. A proposito di Parlamento europeo, abbiamo detto istituzioni, sapete che il Parlamento europeo, una delle ragioni per le quali è molto contestato, è che ha fin dalla sua nascita due sedi, una a Bruxelles e una a Strasburgo, quindi una in Belgio e una in Francia. Perché? Perché allora si decise appunto di distribuire le istituzioni senza voler scontentare alcuno dei paesi fondatori. Questo però è di fatto una duplicazione ed è anche un grande spreco di denaro, perché i parlamentari si muovono tra le due sedi e comunque le due sedi hanno un organico ciascuna, quindi effettivamente un grande impegno economico. Il presidente uscente del Parlamento europeo, che si è anche in realtà dimesso in anticipo, è Martin Schulz, che si è dimesso perché ha deciso di sfidare Angela Merkel alle prossime politiche tedesche. Martin Schulz è della SPD, il partito di centrosinistra, mentre naturalmente sapete che Angela Merkel è della CDU, il più grande partito di centrodestra della Germania. La Saarbrücken Zeitung dà conto di questa azione di un altro eurodeputato, sempre della CDU, sempre tedesco, Herbert Reul, che ha raccolto del materiale su presunte irregolarità nel comportamento di Martin Schulz mentre era presidente del Parlamento europeo. Tra queste accuse di questo dossier, che sono 12 pagine intitolate Il signore di Bruxelles, ci sono quelle di non aver separato adeguatamente la sua attività di presidente dell'istituzione dell'Unione Europea e quella del partito, e di aver fatto in modo che molti suoi fidati occupassero posizioni influenti nell'Unione Europea. Era una vicenda di cui già aveva parlato lo Spiegel, che è uno dei due news magazine principali tedeschi, insieme a Stern, in particolare sotto accusa era finito Markus Engels, che è uno dei due uomini più vicini a Schulz, era stato addetto stampa per il Parlamento dell'Unione Europea e avrebbe ricevuto integrazioni di stipendio e rimborsi di viaggio. E vedremo un po' come evolverà questa situazione, perché noi purtroppo in Italia abbiamo abbassato moltissimo i nostri standard riguardo ai comportamenti dei politici nell'uso del denaro pubblico e anche dei conflitti di interesse. All'estero non è proprio così, e quindi vedremo se questa vicenda, se le accuse risulteranno fondate, se avrà degli strascichi sulla candidatura di Schulz alle politiche tedesche, anche perché un po' inaspettatamente, come abbiamo visto nelle settimane scorse, in realtà sta guadagnando molti punti ed sarebbe quasi alla pari con Angela Merkel nei sondaggi che appunto prevedono l'esito delle politiche tedesche. Ricordiamo che Angela Merkel si è candidata per un quarto e ultimo cancellierato, e se fosse rieletta raggiungerebbe il record che aveva stabilito Helmut Kohl, che è poi stato il suo grande maestro politico. A proposito di Europa e di problemi che potrebbe fronteggiare subito dopo alcune politiche, sappiamo che un'altra incognita del 2017 sono le politiche in Francia. E la Frankfurt Allgemeine Zeitung riporta il parere del ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel, secondo il quale l'obiettivo del Front National di Marine Le Pen è proprio distruggere l'Europa. Secondo questo politico tedesco, il Front National a questo punto può essere veramente definito un pericolo reale, e in caso di vittoria di Marine Le Pen, che sapete sarebbe molto difficile perché anche se prendesse molti voti al primo turno, non prenderà la maggioranza assoluta, quindi si andrà, secondo tutti i commentatori, al secondo turno e a quel punto i suoi avversari si convoglierebbero su un solo candidato per sconfiggere appunto Marine Le Pen, ma sono tutte ipotesi. E quindi secondo appunto la FAZ, che riporta le dichiarazioni del ministro degli esteri, che ha dato alla Frankfurt Allgemeine Zeitung un'intervista, gli effetti negativi dell'insicurezza sul futuro dell'Europa si tradurrebbero in riduzione degli investimenti, fuga dei capitali, e di questa fuga dei capitali e di riduzione degli investimenti dall'estero, sentirebbero gli effetti negativi anche i francesi. Un altro articolo interessante, che in questo caso è stato pubblicato da quattro giornali, il Guardian, da tre giornali, scusatemi, il Guardian nel Regno Unito, la Süddeutsche Zeitung in Germania e Le Monde in Francia, è un appello sostanzialmente di Antonio Guterres, da poco segretario generale dell'ONU, ed è tutto dedicato al tema dell'immigrazione. In Italia, tra l'altro, se lo volete leggere, è stato pubblicato dalla Stampa, che fa parte di questo team di quotidiani europei che ha un accordo di syndication per a volte pubblicare gli stessi articoli. Se si legge in questa lettera, in questa opinione, in questo appello, anche potremmo chiamarlo, in un'Unione Europea che nel 2016 ha ricevuto circa 1 milione di persone, cioè il 2% della sua popolazione, il fenomeno poteva essere gestito se ci fosse stato un investimento importante nelle aree di accoglienza. Guterres ha poi anche delle parole molto favorevoli a Papa Francesco, che dice che potrebbero, che ha dimostrato finora grande disponibilità nell'intensificare la collaborazione con l'ONU. Ma vi segnalo anche invece un articolo un po' meno favorevole, un po' meno che lascia un po' meno di ottimismo sul futuro su questa riforma delle istituzioni europee che da tante voci viene auspicata. È un articolo pubblicato dal Tageszeitung in Germania, parla delle ne abbiamo parlato tanto anche sui giornali, sul Sole 24 in particolare, sulle previsioni economiche per il 2017-2018 fatte il 13 febbraio dalla Commissione europea. E scrive Tageszeitung: questo ottimismo che sembra scaturire da queste previsioni è un po' sospetto. La Commissione finge di ignorare le difficoltà che comunque ci sono nei vari paesi, finge di ignorare che la crisi greca è tutt'altro che risolta, e finge di ignorare che in molti paesi si discute apertamente, purtroppo lo stiamo facendo anche in Italia, di uscita dall'euro. Vi segnalo anche, per chi volesse approfondire il tema del Front National, su Internazionale di questa settimana, la traduzione di un articolo di Liberation intitolato Il Front National non è cambiato. Credo che la maggior parte di voi lo sappiano, però Liberation è proprio un giornale che è alla parte opposta dello spettro politico di Liberation, che è un partito di estrema destra. Liberation è un giornale, una volta l'avremmo definito comunista, adesso è un giornale, possiamo dire, di estrema sinistra. Quello che scrive è: nella campagna per le presidenziali, Marine Le Pen cercherà di rendere più presentabile il messaggio del suo partito, ma i militanti sono fedeli al vecchio estremismo. E dicevamo della Grecia: la Grecia è un altro problema che forse non soltanto la Commissione europea, ma tutti noi fingiamo di ignorare. L'austerità ha colpito durissimamente l'economia greca, e l'Avanguardia, il quotidiano spagnolo, ha pubblicato una settimana fa questo articolo che si intitola La Grecia di nuovo in bilico. E ve lo segnalo, vi segnalo l'ultima parte. Il problema è che l'economia greca, anche se ha ripreso a crescere lentamente, ambiente resta estremamente vulnerabile e incapace di rispettare i programmi di aggiustamento e di riforma, nonostante i grandi sacrifici imposti alla popolazione. Bisogna rendersi conto che allo stato attuale Atene non può farcela con le sue forze. Seguiremo anche questa vicenda molto da vicino. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Ci sentiamo domani, per chi vorrà, per la rassegna stampa dei quotidiani italiani intorno alle 7:15. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.